Non ho proprio più la pazienza di sopportare questa gente che indossa indegnamente la maglia dell'Inter! Ma c'è ma metto a vergogna no! Che quelle sono quattro multe qui! Ma chi cazzo so? Ma avete rendito conto che chi cazzo hanno perso stasera? Che la Boel sceva! Ma chi so? Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. G come giungla, la notte comunque si allunga, le regole sono saltate, le favole sono dimenticate. G. Attenzione a Politano. De Frel difende il possesso al limite, De Frel fa tutto lui, va in slalom, ancora Politano col sinistro, 3-0 e la festa è completa per il Sassuolo. Noi puntiamo sul collettivo e non sul singolo, magari qualcuno poteva sentirsi sicuro del posto, oggi è la dimostrazione che qui tutti possono giocare, per poter giocare nella mia squadra devono preparare le partite nel migliore dei modi. L'inizio, specialmente Lirola, era anche un po' emozionato. Ricordiamoci che lui ha giocato solo in primavera, ha giocato a Belgrado per la prima volta, era la seconda presenza titolare. È una squadra che sta crescendo anche come spirito, cioè di andare alla ricerca della sua miglior performance individuale e collettiva che ci possa permettere di vincere. Vedo tantissimi giocatori che cercano di dare tutto per questa squadra, per la nostra maglia, e oggi di quello che abbiamo creato potevamo anche uscire di qua anche con una vittoria meritata. Il sole ti è contro, ti porta alla luce. Calcio di rigore per la Roma, Diego Perotti, 1-0, il portiere protesta perché Perotti ha rallentato ma senza fermare la rincorsa. Bisogna fare di più e meglio, poi la partita si era messa anche a favore perché eravamo passati in vantaggio, c'era la possibilità di gestire, loro hanno dato la reazione fatta di forza, di fisicità, potevamo prendere la partita perché c'erano le possibilità, invece poi l'abbiamo messa su un piano a loro più congeniale. Parte Buzaglio, che gol! 2-0 per l'Hapoel Beersheba. Dobbiamo lavorare tanto, ancora siamo un po' indietro di condizione, ma ce la stiamo mettendo tutta. Dispiace per il risultato tantissimo, anzi rode proprio il c***o, però dobbiamo lavorare in silenzio. Adesso abbiamo una partita difficilissima ma molto bella da giocare contro la Juve e abbiamo 3 giorni per recuperare, per prepararci al meglio. Così spietati, così senza fine, G come giungla. Va bene, nottataccio di Europa League, il messaggio più bello mi arriva ancora prima della messa in onda, 349-238-6666, vale per SMS e WhatsApp. Grazie alla mia Inter non potrò più neanche bere una birra senza essere preso per i fondelli, avanti con la prossima figuraccia. Sì, perché come sapete l'Inter ha perso contro tale Hapoel Beersheba, una partita da dimenticare, così come la maglietta, la divisa indossata dai nerazzurri. Non so cosa sia stato peggio, se la sconfitta o quella maglietta che mi ha ricordato un lontano Barcellona a San Siro contro il Milan, con una delle più brutte divise della storia. L'unica che ha fatto festa è stato il solito Sassuolo, che ha vinto largamente peraltro la sua gara con grande convinzione contro l'Atletico Bilbao, che non è l'ultima della pista, 3-0 e avanti con le macchine. Marco Nosotti, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ottimo Sassuolo, l'unica cosa da salvare in questa serata di Europa League, per il resto da dimenticare, che fa il paio in parte con quella di Champions League della Juventus, Marco. Ci sta. Insomma, io che potrei, diciamo così, assolvere un po' di più la Juventus rispetto ad altre situazioni dell'Europa League di ieri sera, però Sassuolo bene. E ti dirò, con 6 ragazzi nati negli anni 90, con 3 giocatori che di fatto erano all'esordio, perché Ricci era all'esordio assoluto dal primo minuto. Lecce giocava dal primo minuto terzino sinistro. e doveva marcare con Lored Basco, Williams, che ha corsa, che aveva gambe, che può strappare, e non gli ha fatto toccare quasi palla. E poi Lirola che ha ancora problemi a fare la linea e a fare un po' di diagonali difensive, ma davanti, ecco, appena si è un po' smollato. E devo dire, è stata una delle cose belline della serata, quando Francesco che stimolava, gli dava i punti di riferimento, gli dava i tempi di uscita, quell'altro gli è proprio scappato. Hanno fatto gol anche di Francesco. Sì. Poi l'avvocato del diavolo, Marco, direbbe: il Sassuolo ha cominciato prima, ha fatto il preliminare, sì, è più in condizione rispetto alle altre, ma questo lo direbbe l'avvocato del diavolo. Beh, sai qual è? L'altro aspetto, e ci stanno pensando anche loro, perché tutto è nuovo, bello, ma è nuovo. Allora dice: adesso, prima facevamo 6 giorni di esercitazione, arrivavamo sul campo 4-3-3, bellissimo, imprecisito da Berardi, che ancora non ritorna, però intanto ha vinto senza Berardi. E adesso non abbiamo più tempo per fare questo, allora ci si allena sul campo, ci si allena buttando sti giovani, che mi diceva Di Francesco prima della partita: hai visto, non te li aspettavi questi, però dovrò pure farli giocare, se gioco ogni 3 giorni io devo far riposare la gente e farli entrare nei meccanismi. E poi tieni per terra, perché dice: attenzione, questa euforia qua non dobbiamo pagarla in campionato, perché adesso sei il Genoa. No, questo è chiaro. Questo è chiaro, però non devi nemmeno pagarla in Coppa, perché troppe volte le nostre squadre hanno pagato dazio all'Europa League colpevolmente per il campionato. Bravo, che facevano un po' di calcoli. Ieri non ho visto fare calcoli, ho visto cercare la squadra migliore, la formazione migliore adatta a quel tipo di partita, perché c'era blasone, c'era tradizione, c'era esperienza maggiore dall'altra parte, e anche Valverde che non fa giocare a Duric, ma cerca di trovare le soluzioni per non dare punti di riferimento, per attaccare la linea 4 della loro difesa. Ha provato anche lui le situazioni nuove, ha vinto il Sassuolo, ha vinto bene, e se alla fine Busa passa quel pallone a Matri, sono 4-0 e ci possono stare, perché percentuale di realizzazione altissima. Senti Marco, a distanza ovviamente, perché sì, tu hai seguito questa partita, che idea ti sei fatto sulle italiane che hanno steccato in maniera così clamorosa nella prima di Europa League? Guarda, mi sono fatto un'idea che intanto l'Europa, la sento come banale, l'Europa è mica facile, perché ci sono circolazioni di idee, ci si conosce, c'è la preparazione, non è facile. Bisogna affrontarla bene, bisogna affrontarla con convinzione, con i mezzi giusti. L'Inter in alto mare, c'entra l'Europa, c'entra che partite difficili questa squadra non hanno capo né coda. Per dire, in certe squadre tu vedi il 4-3-3, ok, e ha giocatori doppi per ogni ruolo, per fare il 4-3-3. Qui c'è solo un casino di giocatori che non so come possono essere utilizzati il 4-2-3-1. E allora mi permetti subito il domandone? Posso? Sì. Ma De Boer è già in discussione? Io credo che, se anche non l'hanno detto, ci stanno pensando, cioè ci può stare. Quest'uomo, qualcuno mi dice che è da maggio che l'avevano contattato, io non so quando l'abbiano contattato, però mi sembra che stia andando a cercare di capire qual è questa squadra, e lo può fare soltanto sul campo, e vedo che sta ancora scoprendola. E io ho paura che sia già in discussione, perché questo gruppo ha perso tempo. Beh, sta certo, perdendo tempo. Questo l'abbiamo detto subito. Questo l'abbiamo detto subito nel giorno in cui è stato sollevato dall'incarico Mancini, è stato buttato 1 anno e mezzo. De Boer giustamente chiede tempo per imparare la lingua, per imparare a conoscere la squadra, eccetera. Però per un club come l'Inter il tempo non esiste. Esatto. Ed è questo il discorso da fare. E infatti, io ti ripeto, questa è una squadra in cui hai speso anche dei soldi, hai un bel gruppo di giocatori, ma se scegli una strada, non è che tanto sei doppioni per fare il 4-2-3-1, no, alcuni giocatori in un certo sistema di gioco non possono giocare, se non puoi giocare, faccio l'esempio in campionato, Joao Mario e Mezzene, a due, perché Joao Mario due non ti può giocare, ti attaccano sempre alle spalle. Vai contro la Juve a giocare a due con Joao Mario e Medel, e Joao Mario, che è un signor giocatore, l'hai buttato via. A mio, cioè, meglio col 4-3-3 o addirittura esterno. Certo. Per dire, quindi vedo un progetto a metà, un progetto abbastanza. E questo mi preoccupa, perché io ti dico, sull'Inter io non dispiace i giocatori, però così è andare a spazio. C'è ancora tempo. E c'è subito, c'è ancora tempo. Dietro l'angolo c'è subito una partita senza appello, perché c'è la Juventus, non è tanto questione di risultato quanto questione di atteggiamento, comportamento, di insomma anche come puoi perdere questa partita. Io non vedo grandi chance per l'Inter in questa gara, dunque si tratta di vedere come finirà questa partita qui. Sì, ti dico, è la più brutta che potevi affrontare. Certo, diremo tutti, sono le partite che prepari con grande facilità, le partite che tutti vorrebbero giocare. Banalizzando, sì, è vero, sono le partite in cui non hai... Non ci credo. Io neanche, non hai tantissimo da perdere. Il problema è come riuscirai ad affrontare questa partita, come riuscirai eventualmente a perdere questa partita, come riuscirai eventualmente a tirare fuori la faccia da questa partita, perché altrimenti lunedì saremo tutti a parlare di De Boer che torna ad essere in discussione, magari di Mancini che torna ad essere ricontattato dalla dirigenza nerazzurra, anche perché non è che puoi spendere soldi per tre allenatori, nonostante l'Inter abbia speso moltissimi quattrini in questa campagna acquisti. La squadra secondo me è di livello, in questo momento è improponibile. Marco, ti ringrazio, a presto. Grazie, buona giornata anche a lei. Ci fermiamo per il traffico. 800 24 00 24. Giorgio De Luca, nostro autore, Andrea Roccabelli in regia, Ignazio Falzoni in redazione, aspettiamo anche Pardo, ci sentiamo dopo. Tutti convocati. Qui altro che ciupiti di Bobo Viel. Convocati. L'Inter è arrivato tardi e stiamo veramente provando in tutti i modi a recuperare il tempo perso. Come sapete voi da calciatori, quando c'è un cambio non è mai facile apprendere subito, soprattutto se giochi tante partite in poco tempo e hai pochissimo tempo per lavorare, no? Però noi ce la stiamo mettendo tutta e diciamo quello che succederà lo vedremo alla fine, ancora presto, però naturalmente queste partite non vanno più perse. Tutte le sconfitte fanno male, fa male perdere ancora di più davanti ai nostri tifosi, e dopo un anno che non giocavamo in Europa ci tenevamo a incominciare con il piede giusto, non ci siamo riusciti, però se vado ad analizzare la partita, soprattutto il primo tempo potevamo e dovevamo far gol. Nel secondo tempo loro hanno sfruttato molto bene un calcio piazzato e il secondo è stato bravo ed è il giocatore avversario a fare un bel gol. Vabbè, questi erano Ranocchia e D'Ambrosio dopo la figuraccia di ieri sera dell'Inter. Ho un messaggio relativo alla divisa nerazzurra. Non la definirei nerazzurra alla divisa indossata ieri sera dall'Inter. Questi 11 rincoglioniti travestite da lattine di Sprite, cosa credono? Che l'Europa League sia alla loro altezza? Questa è una domanda che rivolge un ascoltatore via WhatsApp. 800 24 00 24 è il numero verde. Certamente una figuraccia, certamente l'Inter è l'argomento del giorno, certamente l'Inter sarà l'argomento dei prossimi giorni, considerando il fatto che la Juventus è dietro l'angolo. Ciccio Valenti, buongiorno. Buongiorno Carlo. Sì, penso che siamo al livello più basso, non tanto nella storia dell'Inter, quanto perché chi ha vissuto il 5 maggio chiaramente non ti può dire che ieri è stato peggio il 5 maggio. Ciccio, non giriamoci intorno, ti faccio subito il domandone. Sì. De Boer è già in discussione oppure no? No, il problema grosso secondo me non è un problema di De Boer. Il problema secondo me è un problema di livello bassissimo di interismo all'interno della società, dove mi stupisco fortemente che non ci sia nessuno che quando De Boer ha pronunciato la formazione gli abbia detto: scusi mister, sa che con questa formazione 2 anni fa, per la gran parte il numero è quello, non abbiamo mai vinto, mai? E sa che sono stati messo quanto di peggio ci siano stati negli ultimi 2 anni? Perché questo è quello che bisogna dire. Dopodiché, quando è arrivato però il signor l'altro Knight, domandone è che chi lo dice? Chi ha l'autorità di dire questa cosa? Secondo me quando c'è un vicepresidente che è stato il capitano dell'Inter del triplete, io mi immagino che lui debba intervenire in qualche maniera, senza nulla togliere alla stupenda storia. Solo un deficiente può pensare di mettere in dubbio l'interismo di Zanetti, però secondo me a questo punto il concetto è: qual è il tuo ruolo? È il ruolo, cioè, quando è arrivato il signor Nike a presentare una maglia che non ha niente di nerazzurra, niente, voto, niente. Ciccio, voto alla maglietta. Voto alla divisa, niente, alla divisa. Può essere bellissima, ma non è dell'Inter. No, voto alla, voto estetico, gente. Tu sei un esteta, voto estetico alla divisa. Ma a me, cioè, no, allora, il problema è che tu mi puoi dire il voto estetico a qualsiasi cosa, voto all'interismo in quella maglietta, niente, zero. Okay. Zero, quella non è una maglietta dell'Inter, punto. Ma il problema non è che quella è la maglietta dell'Inter, che hai perso 2-0 con una maglietta con cui potevi andare tranquillamente a dormire come pigiama, o lo puoi usare benissimo per far giochi. Io mi auguro che la possano vendere, ma che non, cioè, io vado a prendere quella maglietta per rappresentare l'Inter a mio figlio. Ma io dico, quando è arrivato col catalogo delle magliette, ci sarà stato un dirigente con un minimo di marrone a dire: scusate, bella, ma non è dell'Inter. Non è dell'Inter, l'Inter è nero-azzurra, perché è nata quel giorno strepitosa con i colori nero-azzurri. Poi, beh, così, diciamo, divisa all'altezza della prestazione di ieri sera. C'è anche Pierluigi Pardo, potrà confermare. Eccolo, ciao Pardo. Ciao. Sì, beh, insomma, le terze maglie, diciamo che questo non lo sto difendendo adesso, la maglia che è abbastanza brutta, che è molto brutta e ha portato sfiga. Ma non è un problema di brutta, Pier, no, non è dell'Inter. No, voglio dirti che pure la Juve ha giocato con, no, anni fa giocava, sì, con la maglietta verde evidenziatore, però adesso non spostiamo, ma no, ragazzi, non è l'Inter. Ok, però adesso non spostiamo il discorso da questa non è l'Inter, questa non è la formazione dell'Inter, perfetto, appunto. Però qualcuno non spostiamo il discorso dalla maglietta a chi c'era dentro quelle magliette alla squadra che abbiamo visto ma in anche campo, perché poi devi mettere Banega che alla fine deve fare più fatica degli altri. Quindi il tuo turnover, che comunque nella vita, come insegna Mourinho, si fa il caso di pleurite, peritonite e scabbia, ok? Si fa il caso di turnover, e nessun altro caso, perché giocano i più forti sempre, anche perché tra quelli che hai comprato e quelli che erano in campo c'è un abisso di 2 anni. Quindi? Quindi non esiste al mondo, quindi mettete anni, uno che quindi si è due anni buttati in società, via. Quindi due anni. Dica, oppure aspetta, prendete aspetta, il ruolo aspetta, di Zanetti, aspetta, dice, aspetta, aspetta, bravissimo, aspetta. Vai in giro, bravo, okay, però a Zanetti a fare qualcuno, tutto quello che vuoi, ma sei interista, Ciccio, torna a fare il capitano. Ciccio, però a Zanetti qualcuno deve conferire dei poteri specifici. Eh beh, ci okay? credo, ma scusa un secondo, abbiamo avuto al comando gente in questo periodo, in questi anni, che non so come dire, uno è passato dall'Inter per andare dalla Juve al Milan. L'altro ha fatto giustamente i suoi interessi, ma l'hai fatti con le motività dell'interista. Quindi mi sembra che onestamente Toir e Bolingbrook abbiano fatto i loro interessi. Adesso perfetto, mi adoro perfetto, quegli occhi feroci perfetto. Di sangue, di Dio sangue, quello sguardo feroce. Mi auguro che si torni a parlare di Inter, perché se uno mette quella cacchio di maglia addosso all'Inter, quella è una maglia bellissima, ma per andare a far giochi. Pardo, fermami Valenti, per favore. No, ma a parte gli voglio troppo no, bene. No, lo so che gli voglio bene anche io, ma credo che abbia ragione. Cioè, io credo che sia il trasporto del tifoso. Io penso che insomma, se l'Inter oggi fosse in testa alla classifica, ieri è finito 4-0 in casa con l'Apoel Beersheba, probabilmente Ciccio non sarebbe stata una maglietta dell'Inter lo stesso. No, ma certo, ho capito. Però staremo discutendo di altre cose. Però i toni sarebbero diversi. Insomma, cioè, io credo che poi alla fine. Poi sono d'accordo con voi, sono d'accordo con voi, cioè, anch'io sono un romantico, mi piacevano le maglie di lana di una volta, però dico che non è la prima volta, forse è il caso più clamoroso, anche perché poi chiaramente si lega una prestazione vergognosa come quella dell'Inter di ieri sera, e è un momento oggettivamente difficile, però appunto gli ultimi anni abbiamo visto le maglie fatte con l'Uniposca, abbiamo visto delle robe sconcertanti, ma non solo all'Inter, anche da altre parti. Vabbè, ma qualcuno che ha detto scusa aspetta, fermi sì. Tutti, perché c'è De Luca che dalla redazione suggerisce la mimetica del Napoli, a me piaceva tantissimo. Ecco, la mimetica del Napoli non aveva niente di Napoli. No, va bene, a me piaceva, ma lo so, anche io sono un po'. Sì, il problema è, oltre alla maglietta, anche la formazione. Qualcuno gliel'avrà detto a De Boer, scusi un secondo. Ma presente che con questi giocatori 2 anni fa non siamo andati in Europa? Con questi giocatori 2 anni fa qualsiasi persona arrivava a San Siro, qualsiasi squadra arrivava a San Siro e vinceva. Perché questo è il nocciolo, giusto? questo è il nostro. No, anche perché questo mi sembra un tema. Poi fai una fatica mostruosa di psiche, fisica, mostruosa. Mm-hmm. Sì, e poi soprattutto mi sembra che questa squadra che ha fatto mercato, comprando i giocatori anche interessanti, secondo me, in termini di talento, poi ci sia questo elemento di chi non se n'è andato. Cioè, mi sembra che poi le seconde linee sono sempre quelle. E che ci sia una confusione tattica forse. Senti, senza precedenti. Anche a te faccio il domandone che torna per gli interisti, torna per tutti gli ascoltatori, 800240024. Ma a questo punto, con la Juventus dietro l'angolo, l'allenatore venuto dall'Olanda è già pesantemente in discussione? Beh, se non è in discussione Montella con gli altri dietro l'angolo da dietro, cioè scusate. Iniziamo a razionalizzare il tutto, perché poi ovviamente ognuno guarda in casa sua, però è anche giusto, mi permetto, incasellare quali sono i problemi. Mm-hmm. Perché comunque sia, se lunedì non c'è stato un processo aperto totalmente alla situazione del Milan dopo la sconfitta in casa con l'Udinese, perdonami Ciccio, però l'Inter secondo me, sto parlando di usiamo la metafora delle magliette, l'Inter ha un'altra stoffa rispetto al Milan, siamo io chiari. No, beh, allora, questo io lo sostengo da tempo, ma da tempo parlano delle milanesi, e forse i milanesi non è così, cioè non sono comunabili, sono togli, ognuno guarda poi in casa sua, insomma. No, loro sono stati l'Inter ha nettamente più talento, secondo me più prospettive, e la vedo nettamente avanti rispetto al Milan. Però diciamo che il dato di debolezza, si parla spesso delle milanesi perché negli ultimi anni le milanesi sono andate male, tutte e due. La differenza spesso è stata trascurabile. Quest'anno, cioè mi riferisco alla stagione scorsa, certamente l'Inter andrà meglio del Milan, tanto è vero che fa l'Europa League, però diciamo che per quella che è la storia e il rango dell'Inter non è una differenza così significativa, quindi qualcuno magari questo tipo di comunanza la mette, una successione giornalistica, poi ci sono ovviamente le differenze. Detto questo, io De Boer probabilmente non l'avrei preso, ma oggi, cioè, se prendi De Boer devi considerare che stai facendo una scelta di medio periodo, di medio-lungo periodo, stai scegliendo un allenatore comunque con dei metodi, allora, diversi da quelli che ci sono in Italia. Io non so se l'Inter possa permettersi dopo questa stagione il medio-lungo periodo, e questa è una mia domanda, ragazzi, ti fermi. Trovi comunque Nagatomo in cuore la maglietta, che ci facciamo? E no, poi l'allenatore per il breve periodo si chiama Fabio Capello. È il più grande semplificatore di situazioni. Tu prendi Capello, quindi, secondo me. Quindi hai già risposto alla mia domanda. De Boer, comincia già ad essere in discussione. Una volta che hai preso De Boer, secondo me l'hai preso con la prospettiva di costruire un'idea di calcio di un certo tipo. Perfetto. Cioè, perfetto. Come se prendi Zeman, faccio per dirti, perfetto. Come se prendi Bielsa, il problema è che dopo queste stagioni il medio-lungo periodo non ce l'hai, e forse questo è l'errore a monte. Allora, invece questo è il momento in cui l'Inter, visto che ha fatto questa scelta, deve mantenere, deve dare grande fiducia all'allenatore, deve difenderlo, deve mantenere la barra al centro, dritta, e aspettare tempi migliori. Non so se esista questa, io non so sinceramente se esista questa possibilità. Ringrazio Giacomo Ciccio Valenti, ci sentiamo presto. Ciao Ciccio. Ciao Pier. Allora, fermiamo per la borsa, torniamo subito, 800240024, Giuseppe Gabriele già in linea. Tutti convocati. Tra poco, nuove notizie. Pigia il coso rosso, grazie. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Pierluigi Pardo. Eccolo. Dopo un arrabbiatissimo Ciccio Valenti, torniamo a parlare con gli ascoltatori, non trascuriamo gli ascoltatori, la voce degli ascoltatori che oggi ovviamente chiamano in gran numero, io suppongo per la maggior parte interisti. 800240024, 0024, numero verde. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie io a lei. Condivido in pieno l'incazzatura di Ciccio Valenti. Quello che penso è che i giocatori che vanno in campo devono dare tutto quello che hanno, e far vedere ai tifosi la voglia che hanno di far vedere all'allenatore quanto valgono. E ieri sera non c'è stato questo. Quindi io direi, visto che c'è il la lista del fair play finanziario e quindi alcuni giocatori non sono stati potuti mettere in campo perché c'è il discorso dell'Europa, a questo punto alcuni di quelli di ieri sera vengono messi proprio fuori rosa, si investe nei giocatori della primavera, sì, ragazzi, e piuttosto di fare... L'Inter ha speso, se non ricordo male, vado a memoria, 101 milioni in questa campagna acquisti. Adesso buttiamo a mare anche questi soldi? No, ma io dico, rispetto a quelli di ieri sera c'era Felipe Melo, che oramai hanno fatto fatica a buttarlo fuori dalla rosa e non sono riusciti. Ranocchia, che l'anno scorso è andato a Genova e faceva la riserva nella Sampdoria. Ci sono altri giocatori. Piuttosto che mettere questi giocatori qua, mettiamo dei giocatori in Europa League, perché visto che José Mario, Condobbia, Jovetic non possono giocare per il play finanziario, facciamo giocare dei ragazzini della primavera. Perlomeno si impegneranno di più. Non sono così d'accordo, perché vorrebbe dire dare un segnale molto negativo all'Europa League dell'Inter, che insomma è una delle italiane che può legittimamente ambire a qualcosa in questa competizione. Far giocare la primavera, io è un discorso che non condivido personalmente. Sì, anch'io, è una reazione di pancia, per carità, legittima, ma insomma secondo me poi bisogna essere invece lucidi e razionali, e il problema c'è, cioè ci sono dei giocatori dell'Inter di oggi chiaramente in esubero. L'Inter ha comprato, però ha fatto fatica a vendere, anche perché alcuni giocatori sul mercato valgono molto meno di prima, e questo problema se lo porta dietro. Poi hanno ingaggi molto pesanti, senza dimenticare questo. Non è togliendo Palacio e Felipe Melo, Brozovic, che... e mettendo tre ragazzini che si può risolvere il problema. E poi c'è appunto questo segnale che l'Europa League invece è importante, deve essere onorata e può ancora regalare cose positive secondo me all'Inter. Siamo solo all'inizio, partita con il piede sbagliato, e adesso però il domandone, torno a ripetere, è: con la Juventus dietro l'angolo, che cosa può succedere lunedì mattina? Gabriele, buongiorno. Buongiorno Genta, io la ringrazio per la convocazione, volevo dire che mi sarei abbracciato fortissimo Ciccio Valenti, che questione di fede, Gabriele. No, io non credo che sia questione di fede. Guardi, il grande buco dell'Inter non dipende tanto dall'allenatore, i giocatori in campo. Nell'Inter, secondo me, c'è un buco grosso così nella parte sportiva della dirigenza, perché negli ultimi anni, diciamo da dopo Moratti, si è pensato a racimolare soldi nei mercati asiatici per avere gli sponsor, facendo grande marketing, si è pensato a fare soldi con le tournée all'estero. Questi però non sono peccati mortali, perché sono comunque peccati che commettono tutti i grandi club europei. Sì, ma gli altri club europei hanno comunque una parte della dirigenza che si occupa della parte sportiva. Noi abbiamo cominciato ad andare male, se lei se lo ricorda, quando è andato via Oriali. Ora non è il problema di Oriali, ma una figura di raccordo tra la squadra e la società ci vuole. Come diceva Ciccio Valenti, qualcuno che vada da De Boer e dirgli: guarda, ma chi stai mettendo in campo? Questi qua sono dei brocchi. Qualcuno in società che dica: vabbè, teniamocelo questo Di Marco, visto che la nostra riserva a terzino sinistro è Nagatomo. Ci vuole. E invece si è pensato a fare il marketing, si pensa magari a mettersi in mano a grandi procuratori che fanno grandi numeri ma li fanno per se stessi, si pensa a mettersi in mano ai bro, Gabriele, ai bowling, fantastico, bro. Tutto perfetto, però come notavo io così. Prima c'è qualcuno che deve dire: ok, Savia Zanetti, tu hai il potere di gestire comunque la parte tecnica, di andare da De Boer e dirgli: ma perché mettiamo questo e non quello? Non è che Zanetti, come dicevamo prima, può farlo su Asponte, No, correggimi se sbaglio, per Luigi. Ma no, ma poi non è che puoi commissariare l'allenatore. Cioè, non io puoi allora... commissariare l'allenatore, no, certo. Non puoi commissariarlo, non è poi dire ma gli stai mettendo in campo, perché se no non lo prendevi, allora questo è un altro discorso. Io credo che l'estate dell'Inter sia stata un'estate sbagliata perché c'è stato questo equivoco di Mancini, che ha finito per accorciare clamorosamente il tempo a disposizione poi di De Boer nelle sue scelte. De Boer ha pure diritto a capire dove si trova, perché viene da un altro mondo, perché comunque non parla la nostra lingua, e insomma questo è un punto fondamentale, quindi forse è un azzardo prenderlo così a ridosso del campionato. Se lo prendi, lo prendi per un progetto di lungo termine. Per quanto riguarda il mercato dell'Inter non è stato un brutto mercato, insomma ragazzi, non è che bisogna far pace, l'Inter ha preso Banega, che è un colpo, ha preso Candreva, che è oggettivamente un giocatore importante, ha blindato Icardi, che è uno dei prospetti principali ed era la prima alternativa del Napoli dopo la partenza di Higuain. Abbiamo visto griglie e controgriglie del campionato che davano l'Inter comunque in seconda fila, al massimo quarta, proprio al massimo, tra il secondo e il quarto posto. Per me è quarta, lo dico dall'inizio della stagione, perché secondo me è dietro sicuramente al Napoli e penso anche alla Roma, ma comunque ha un potenziale, quindi non è che adesso è tutto da buttare via, la colpa di Bolingbrock, la colpa dei nuovi proprietari, non è così, è una squadra che si sta faticosamente ricostruendo e che in questo momento ha problemi di guida tecnica abbastanza precisa. Questa è la realtà dei fatti. Sì. Ci fermiamo per il traffico, torniamo subito. Pino, Francesco già in linea, stiamo anche aspettando un illustre ospite. Tutti convocati. I love this game. Tutti convocati. Allora, ripartiamo, Pierluigi Pardo da Pino, da Pescara. Ciao, buona serata. E io veramente ieri sera volevo dire che abbiamo visto un Pescara travestito in rosso. Sembrava identico al Pescara, questa squadra israeliana. Eccezionale nella precisione, insomma. Io poi ho visto la formazione invece dell'Inter. Allora, tu sei di Pescara, posso dire un po' meno di qualità rispetto al Pescara di Oddo? Sì, no, sicuramente. Ah. No, io parlavo di precisione nei passaggi. Giusto per mettere le cose in chiaro. Sicuramente. Però comunque ho visto un Inter proprio giù a terra. Nelle formazioni, come diceva tuo ospite prima, non si poteva guardare Felipe Melo, Nagatomo. Cioè, io non sono d'accordo con Pardo di prima, quello che ha detto della formazione, cioè dell'acquisti che ha fatto l'Inter. Io Candreva ieri sera ho visto un Candreva spento, ha fatto un tiro di sinistro non possiamo metterci a discutere il valore assoluto di Candreva, però credo che Candreva fosse un obiettivo di mercato di altre squadre, ad esempio del Napoli, ed è un giocatore, ed è un vero giocatore. Insomma, io quello che dico è che la diagnosi è molto semplice, cioè questa è una squadra con dei valori tecnici secondo me buoni, non eccelsi, ma buoni, che ha tanta pressione addosso perché è tanto che non vince, ha un allenatore nuovo che è arrivato da 20 giorni e che ci sta capendo pochissimo, e ha un nome che è Inter, per cui qualsiasi sconfitta, qualsiasi momento di impaccio aumenta la pressione. Viene evidenziata, aumenta la pressione. Ma giustamente, cioè non è che... Senti, possiamo, Pier, sei d'accordo se giriamo questo interrogativo... tanto per cominciare la nostra chiacchierata a Giampaolo Montali, deus ex machina del Open d'Italia a Monza. Sto andando da lui, fra un'oretta sono lì. Ah sì, lì? Ah beh certo, che fai questi pomeriggi? Quindi, non vai informazioni per il traffico, Giampaolo Montali, Pardo sta arrivando. Sì. Ciao. Vabbè, lo aspetto con ansia. Sì. Buongiorno a tutti. Ciao mister, ciao coach. Buongiorno. Ciao coach, mister no. Coach, cosa dici di questa pressione di cui stavamo discutendo, che è addosso all'Inter, ma anche alla Juventus, che è addosso al Milan, che è addosso a tutte le grandi squadre che hanno enormi difficoltà in questo momento? Ma guarda, per quello che riguarda la pressione, dico che se tu sei una squadra che sei stata creata e sei deputata a giocare per vincere, ci devi vivere con queste cose, ci devi convivere, ma soprattutto devi farti a fare le abitudini. Quindi deve essere una cosa normale per chi lavora in quei club. La cosa importante è scegliere persone che abbiano la capacità di sopportare questa scimmia sulle spalle della pressione del risultato sportivo. Non è che puoi prendere qualunque giocatore, dipende dai giocatori che abbiano delle qualità per poter sopportare questo, e devi prendere anche dei dirigenti che hanno le capacità e allenatori per tenere, sapere dove sono finiti a lavorare, perché certo. Non conto è lavorare alla Juventus o all'Inter, almeno un conto è avere una società. Perfetto. Tu che faresti? Perché insomma a Montalli insomma, parliamo anche di golf, parliamo se volete anche di volley, ma ha fatto cose importanti anche da dirigente calcistico, e nel tuo secondo libro leggevo per esempio il concetto del parafulmine, no? Cioè il dirigente che viene e si prende su di sé la responsabilità nei confronti della squadra, nei confronti dell'allenatore, nei confronti soprattutto del mondo esterno. Tu che, se oggi fossi un dirigente dell'Inter, che faresti? Ma guarda, intanto credo che una delle prime qualità che deve avere una società è quella di mettersi in mano a delle persone che abbiano la capacità di governare organizzazioni che sono deputate a giocare per vincere, e quindi ci vuole persone che abbiano l'autorevolezza di avere a che fare con i giocatori, con gli allenatori, che siano in grado di rispondere a due quesiti fondamentali. Uno, sapere se una persona è competente e sa di ciò di cui sta parlando, quando parla una squadra, quando parla di obiettivi. E due, se sei una persona vera. Queste sono le due caratteristiche principali che deve avere, secondo me, un leader e un manager che deve guidare un'organizzazione. E poi l'altra cosa che è importante è la questione di stile. Cioè, le società sono società che vincono sempre e altre che non ce la fanno. Il segreto non sta solo esclusivamente nella qualità e nell'abilità degli uomini che ha in campo, sta soprattutto nella definizione dello stile, dell'organizzazione della società. Quindi il primo tassello è creare una società organizzata in mano delle persone autorevoli che abbiano le idee chiare su quello che devono fare poi la squadra sul campo. Però ci deve essere anche qualcuno che, prima parlavamo di Zanetti, Zanetti dovrebbe andare dall'allenatore e dire questo deve giocare, quell'altro non deve giocare, che dovrebbe dare delle direttive. Però io credo, Giampaolo, che in un organigramma in cui ognuno sta al suo posto ci dovrebbe essere qualcuno che conferisce tale tipo di potere. No, io credo che si vince solo una condizione, che ognuno fa ciò che è deputato a fare. Cioè, per avere una squadra che è deputata a giocare per vincere, devi sapere chi fa cosa, come la bravissimo, fa, perfetto, la fa, perfettamente, in che momento la fa, perfettamente, e con che responsabilità d'accordo. La fa. Quindi il ruolo di Zanetti, che io decisamente non ho capito bene qual è in questo momento all'Inter, ci deve essere qualcuno che li investa di un ruolo autorevole di cui si possa permettere di andare di fronte all'allenatore, di fronte alla squadra, e parlare con un ruolo chiaro e preciso. Perché i giocatori, guarda, quello che ho imparato io soprattutto nel mondo del calcio, i giocatori rispettano solo due figure nel mondo del calcio: l'allenatore, che li governa sul campo, e chi gli stacca gli assegni. Esatto, però il presidente sicuramente, ma poi la persona che il presidente che rappresenta il presidente della società, cioè il direttore generale, il direttore sportivo. Quindi sono pochi i ruoli che i giocatori vedono con punti di riferimento. Beh, però per fare questo devi investire la persona di un ruolo chiaro e preciso. Senti, mentre Pardo sta arrivando, parliamo un po' di golf. Certo, che succede in questi giorni in Italia? C'è un bolidari super, ragazzi. Bisogna venire tutti, weekend, insomma, l'altro ingresso faccio proprio l'uomo semplice. Ma insomma, il golf è uno sport intimamente d'élite. Forse lo era 30 anni fa, forse lo era in Italia 30 anni fa o 20 anni fa. In molti altri paesi sta diventando uno sport pop nella sua realtà più vera. L'ingresso è gratuito, Monza, parco, praticamente dentro l'autodromo, è dentro il parco, insomma è un posto bellissimo, e il tempo domani dovrebbe essere anche meglio. Poi c'è un grande Molinari, Giampaolo. Sì, beh, innanzitutto Luigi Pardo, testimonial dell'Open d'Italia. Va bene, ok. Ma lo fai giocare a golf? Eh beh sì, devi giocare a golf. Fai giocare Pardo a golf? Sì, va bene, devi arrivare, perché devi. Il golf... Vabbè. Guarda, è uno sport dove unisce due caratteristiche: destrezza e abilità. Intanto l'unico sport che gioca con la palla da fermo, mentre tutti gli altri la palla gira, quindi è difficile, ci vuole tecnica individuale, capacità di gestire il corpo. E la seconda cosa importante del golf sono quei 3 centimetri che passano sopra le sopracciglia, cioè quindi la testa. Sono due cose entro le quali... Quindi Pierluigi, facendo il golf, allena tantissimo queste due cose qua, la destrezza e l'abilità... me lo restituisci un altro uomo domenica per tutti i convocati weekend. Pardo sarà un altro uomo, avremo un Pardo migliore. Senti, torniamo a sentirci, Giampaolo Montali, nel corso di questi giorni. È un appuntamento ufficiale. Con molto piacere, vi aspettiamo tutti. Oggi c'è tantissima gente, dico Pierluigi di arrivare velocemente, perché sennò è costretto a parcheggiare molto lontano. Piano, sì, velocemente, ma occhio alla velocità, agli autovelox, auricolare, queste cose qui. Giampaolo Montali, ti ringrazio. Pardo, ti saluto perché devi andare da Montali. Va bene, devi andare a Monza. Ci sentiamo domenica per tutti i convocati weekend. Noi invece torniamo subito dopo il GR. Il segnale orario vi è offerto da... Il 56esimo Salone Nautico vi aspetta a Genova dal 20 al 25 settembre. Tutti convocati. La Juventus non è l'unica candidata a vincere la Champions, perché quando si partecipa si gioca per vincere, soprattutto quando siamo alla Juventus. Insieme alla Juventus credo che ci sia Real Madrid, il Bayern Monaco, il Barcellona e il Manchester City che siano a livello della Juventus, se non un gradino sopra, soprattutto per i risultati e le vittorie che sono state fatte, perché altrimenti passiamo da un'euforia a delusioni. La mettete voi dall'esterno, ci vuole, come dice sempre il mister, ci vuole tanta calma in tutte le cose, quindi nei momenti buoni e magari nei risultati meno buoni. Io sono convinto, come ho detto a fine partita, che è stata una prestazione positiva. Quello che però più mi ha dato, non fastidio, che però un po' mi ha deluso, è stato l'atteggiamento nell'arco dei 90 minuti. La Juventus va sostenuta e ieri sera dopo 20 minuti c'è stato chi cominciava già con i mugugni. Questo c'è per esemplificare con un montaggio sonoro, con voci facilmente riconoscibili da Allegri fino a Chiellini, la pressione che c'è addosso alla Juventus anche e soprattutto dopo questo 0-0 in casa con il Siviglia. Abbiamo ascoltatori in linea, Gianni Francesco e Flaviano. Abbiamo Marco Bellinazzo che ci ha raggiunto dal Sole 24 Ciao, Ore. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Senti, sgombriamo subito il campo dagli equivoci. Quanto vale economicamente una vittoria in Champions League? Un milione e mezzo rispetto al milione delle ultime edizioni e 500.000 il pareggio. Questo parliamo ovviamente della partita secca, insomma, non è il milione ovviamente che preoccupa la Juventus, il milione perso. No, attualmente no. È chiaro che la tifoseria è molto ben abituata dalle parti di Torino, l'acquolina in bocca per la Champions è venuta con questo grande mercato e dunque è chiaro che ci sia un po' di nervosismo, ma Allegri, insomma, ha saputo gestire psicologicamente benissimo l'avvio tremendo della scorsa stagione, figuriamoci, insomma, se non sa gestire questo 0-0. Beh, certo, mi sembra chiaro che parleremo di Milan, del futuro del Milan e della trattativa sul Milan con questo closing che sa da fare come quel famoso matrimonio. Gianni, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Allora, io dissento totalmente dall'impostazione data alla discussione. Per me il fatto che quella dell'Inter e la mancanza dell'organizzazione, di responsabilità, di chi deve fare cosa, per me è normalissimo, perché è legato all'intervento dei cinesi in Italia. I cinesi vogliono depotenziare il calcio europeo. Hanno cominciato con l'Italia e proseguiranno in seguito. Come hanno fatto con le grandi industrie che hanno comprato i marchi e li hanno chiusi, così vorranno depotenziare il calcio europeo. E attualmente il mercato Champions è molto più appetibile della FIFA World Cup. Sì. E dato che loro hanno un bacino d'utenza di oltre 2 miliardi di spettatori, se lo vogliono portare a casa. Quali sono le squadre più in crisi del calcio italiano? Allo sbando? Inter e Milan. Guarda caso, quindi hanno fatto un agguato ad Inter e Milan per depotenziarle e per con questo depotenziare il calcio italiano ed europeo. Mi sembra una visione vagamente orwelliana questa. Sì, io non ho mai visto dei cinesi che vengono a perdono volontariamente dei soldi. Bravo. Insomma, quindi mi sembra insomma una visione che ovviamente lasciamo a Gianni, però non mi sembra quella corretta. Ecco. No, c'è in atto una chiaramente una colonizzazione del calcio europeo laddove è possibile. Ed è chiaro che due squadre in una piazza come Milano, che ha grande blasone e tradizione, ma aveva una debolezza finanziaria e strutturale per diversi motivi che in questo momento non abbiamo il tempo di indagare, sono erano i due obiettivi migliori di questa campagna di colonizzazione. Certo, non si poteva andare a prendere il City, ci hanno provato a prendere il City, ma gli è stato concesso per depotenziare anche solo quello. Il 13% per 400 milioni, i cinesi hanno comprato anche qui una quota del Football City Group, e chiaramente andare a prendere invece Real, Barcellona o Bayern Monaco per tanti motivi è impossibile, è chiaro che si sono diretti qui. Poi c'è un obiettivo chiaramente di potenziare anche il calcio locale, anche il calcio cinese, di prendere il know-how organizzativo e tecnico, lo si sta facendo in tantissimi modi, ma certamente diciamo che vengono a studiare in Italia pagando il quanto devono pagare per apprendere le conoscenze. L'obiettivo sicuramente non è quello di depotenziare le squadre italiane o di perdere. Anche perché sarebbe una fesseria, no? Perdere dei soldi, sì, si andrebbe a rovinare dei brand che sono tuttora fortissimi. I cinesi in questo momento sono molto, molto legati, insomma, alla necessità di investire sui marchi. Sorridevo perché ho un WhatsApp che dice: certo, e sempre i cinesi hanno lobotomizzato il cervello degli 11 in campo di ieri sera, ovviamente riferendosi all'Inter. Vabbè, Francesco, buongiorno. Buongiorno, allora, intanto le parole che ho sentito del mister, di Chiello e di Bonucci mi hanno riacceso il magone per quella traversa di Gonzalo e per il pullman di San Paoli che sta ancora parcheggiato davanti la difesa. Quindi mi è salita un pochino di tristezza. Detto ciò, nel farvi complimenti sia a lei che a Capuano, che a Pardo per la trasmissione, perché siete veramente giornalisti importanti al di là dell'aspetto solamente sportivo. Vi devo nel contempo tirare un pochino le orecchie, perché dopo la tornata di Europa League, secondo me non avete dato giusta attenzione a quello che è il nuovo fenomeno di questa Coppa. Cioè, invece di parlare di squadre più blasonate come la stessa Juve, Inter, Fiorentina, volevo una riflessione su un altro team che sta venendo fuori, che sono 3 o 4 stagioni che sta facendo benissimo, ha un allenatore giovane, unisce il bel gioco ai risultati. Il Sassuolo. In molti si parla di favola, io invece penso che ci sia un progetto serio di lavoro nel medio-lungo periodo. No, in realtà non è solo, ma volevo sapere cosa ne pensate dell'Hapoel Beersheva. Grazie a tutti, volevo fare un salutone. Dopo il Beersheva, io non saprei cosa pensare. So Beh, solo che ha vinto ieri sera. No, è una squadra. A San Siro, non saprei cosa. È una squadra, aggiungere. Che è stata regalata alla moglie da un importantissimo, insomma, imprenditore, cioè, che del settore tecnologico, che esattamente, però tra l'altro imparentato anche col sindaco di Gerusalemme. Mm-hmm. Quindi è una squadra di una città che è un'area desertica di Israele e che è caratterizzata da un grandissimo nazionalismo, quindi c'è tantissima attenzione e pressione su questa squadra, e la nuova dirigenza ha saputo fare un bel progetto riportandolo al vertice del campionato israeliano e fare anche bella figura in Europa, insomma. Vabbè. Abbiamo dato, penso, poi qualche connotato, poi vediamo come sarà come il futuro. E intanto ha cominciato con 3 punti a San Siro. Parliamo con Flaviano da Monza e poi andiamo sul Milan. Flaviano, buongiorno. Sì, buongiorno, intanto complimenti per la trasmissione. Volevo fare 2 precisazioni, soprattutto sull'anno scorso Juventus-Bayern, che non ci vuole un po' di pazzia estrosa per da 2-0 portare a casa il risultato. Seconda cosa, il risultato della Juve sullo 0-0, allora, quando hai in panchina a mezz'ora dalla fine della partita Mandzukic e Piazza, e non li metti dentro, addirittura io preferisco Piazza, no? Con Dybala e Higuain, allora vinci, sicuro, sono certo che vinci. Però sulle certezze io nel calcio, io sul calcio di certezze ne ho poche, poi possono essere col senno di poi delle mosse da analizzare. Ha ragione lei, soprattutto su piazze in grado di cambiare ritmo, però da dire fai così e vinci sicuro, nel calcio io ci andrei piano. Volevo interrogare Marco Berinazzi invece sulla Fair Milan. Beh, a Fair Milan, che dopo il deposito della caparra della seconda parte, siamo a 100 milioni, si sta dirigendo con qualche difficoltà naturale, diciamo, in questo tipo di trattative, in questo tipo di procedure e affari, verso la sua conclusione. Si era parlato di date inizio novembre, così. Io insomma non ho mai creduto che fosse già fissata una data. Diciamo che è importante chiudere entro fine anno, che il fatto che non ci siano ancora i nomi naturalmente crea un po' di disagio. Mi sembra abbastanza bizzarro. È abbastanza bizzarro, ma si spiega con il fatto che in questa trattativa, al momento della sigla del contratto preliminare, il consorzio che doveva finanziare il veicolo, la società che poi diventava effettivamente proprietaria del Milan, si è praticamente sciolto, nel senso che sono cambiati i protagonisti, perché al governo cinese quei soggetti non andavano più bene, perché erano legati a Galatioto, quindi al intermediario americano. Abbiamo scoperto strada facendo, sì. Si è scoperto lo stesso giorno, insomma, l'ennesima sorpresa. A questo punto noi abbiamo un perno, che è il fondo AXA Capital, che è un fondo di Stato, che è quello che sta fornendo le garanzie. Intorno a questo perno si stanno individuando, io ho scritto qualche settimana fa che il governo cinese sta facendo una sorta di casting di aziende, diciamo, gradite. X Factor. È una specie di X Factor, lì non si deve cantare, ma si devono mettere quattrini e garantire fedeltà, diciamo, al piano di espansione cinese nel calcio. E sono già molte le società che sono entrate, che hanno aderito, per cui quando sarà completato si procederà al closing, quindi. Dicevo, importante che sia fatto entro la fine dell'anno, perché entro quel periodo si dovrebbero, diciamo, attivare le trattative con la UEFA per siglare il cosiddetto voluntary agreement. Di cosa si tratta? Si tratta di quel piano che finora nessuno ha fatto in Europa, che per esempio l'Inter non ha potuto fare perché era già sotto sanzione, per evitare le sanzioni più gravi a cui il Milan andrebbe incontro qualificandosi per l'Europa, perché è molto oltre i paletti del fair play finanziario. E a quel punto, una volta concordato con l'Union la possibilità di derogare un po' ai paletti del play finanziario, quindi subendo delle restrizioni minori, si può presentare un piano di espansione, un piano industriale che è stato già consegnato nelle mani di Fassone. Questo piano appunto prevede l'incremento dei ricavi commerciali, prevede di portare, di far raddoppiare. Sì, diciamo che comunque, Marco, è un piano non a breve termine, è un piano assolutamente, quantomeno a medio termine. Assolutamente, giusto? Questo è un piano, diciamo, triennale / quinquennale. Perfetto. Deve essere un piano credibile, e a quel punto, diciamo, la UEFA ti può dare maggiori margini di manovra. Questo lo puoi fare, ripeto, entro fine anno, quindi è importante che la nuova proprietà si palesi e che tutto si definisca, certo, entro la fine chiaro, dell'anno. Questo è chiaro. Ci sono chiaramente tanti dubbi, ne abbiamo anche noi, naturalmente stiamo seguendo questa trattativa da oltre 2 anni con i suoi alti e bassi e le sue mille sorprese. C'è da fidarsi in questo momento del fatto che c'è di mezzo direttamente il governo di Pechino, è l'unico caso di acquisizione di una squadra in Europa da parte di realtà cinesi in cui si può fare direttamente capo al governo di Pechino. E d'altro canto abbiamo 100 milioni messi sul piatto. No, quello, 100 milioni sono arrivati, senso, quello era il punto dolente, no? Cioè, arrivano questi soldi o non arrivano? Perché se non arrivano poi si riaprono tutte le discussioni del caso e nulla è concluso, e si tratta di andare a scoprire chi sono gli investitori e i nuovi investitori, eccetera, eccetera. Qui intanto ci sono quei 100 milioni. Sono arrivati, 100 milioni sono arrivati, adesso rimane questa X. Una serie di X alla voce acquirenti, diciamo, ci sarà nuovi proprietari, una società, non so se sarà la Sino o un'altra con un altro nome, insomma, di fatto chi parteciperà a questa società con diverse quote sarà naturalmente in proporzione anche proprietario del Milan. Un'ultima cosa importante, c'è da dire che al momento del closing non solo dovranno essere versati i soldi che restano alla Fininvest come venditore per il 99%, certo, ma si prevede che debbano essere messi a disposizione anche i primi 100 milioni di quella famosa tranche di 350 milioni diretti a potenziare la squadra e la società. Ora, il dubbio, e da questo si capirà molto, è questo, cioè chiaramente Milan chiude il bilancio a fine anno, sì, ci sarà un bel rosso, sì, magari non 90 milioni, negli ultimi anni si spera qualcosina in meno, si dovrà fare un aumento di capitale probabilmente e quindi dare liquidità alla società, bisognerà capire quanta parte di questi soldi quindi vanno a coprire il buco e quanta parte invece si andrà a mettere sul mercato, certo, per comprare giocatori, certo, questo che è poi già quello che interessa alla gente, quanti soldi arrivano, quanti soldi vanno sul mercato, quale tipo di mercato si può fare a gennaio, ben sapendo che non è mai stato nella storia un mercato risolutivo per così svoltare le sorti di un club. Continuiamo a parlare con gli ascoltatori mentre rimaniamo su questo argomento. 800240024. Gianmario, buongiorno. Buongiorno, grazie, dica, per avermi convocato. Io grazie a lei. Volevo, io sono tifoso del Napoli e noi rispetto a Milan Inter non siamo nemmeno paragonabili per storia, palmarès, per contesto socio-economico. Non buttiamoci via, non buttiamoci, no, giù. È vero, bisogna dire la verità. Anche perché tifosi, Marco Berinazzo, tifoso del Napoli, pure lui, e quindi non buttiamoci però giù. Però bisogna dire la verità. Dopodiché, negli ultimi anni, nonostante fatturati, monti ingaggi superiori al Napoli, secondo me il vero problema di Milan e Inter è che non hanno mai avuto un progetto tattico e tecnico, a differenza del Napoli, con Mazzarri, Benitez, adesso con Sarri, bene o male, ma ha sempre avuto un'idea tattica e ha comprato dei giocatori funzionali. Milan e Inter comprano le figurine, però da quanti anni non vediamo il gioco al Meazza? Secondo me il problema è quello, non è il giocatore o la figurina. No, secondo me il problema è a monte, secondo me il problema è societario e il problema è di avere chiarezza al vertice della piramide, dopodiché con i soldi che hai in mano, con i soldi che hai in tasca, fai il mercato, strutturi la squadra, non compri le figurine, compri i giocatori e ti dai una così una dimensione che può essere del livello che i quattrini ti permettono, sì, diciamo che meno soldi ti danno anche meno possibilità di, come, sì, dire, fare errori, paradossalmente, nel senso che il la Napoli... questione è la chiarezza, sì, che non esiste a monte per quanto riguarda Inter e Milan. Il Napoli fondamentalmente ha avuto in questo suo percorso in Serie A tre allenatori, non ce n'è almeno, Mazzarri, Benitez, Sarri. Credo che Milan e Inter ne abbiano cambiati molti di più, non arrivando, diciamo, all'Eccelso del Palermo, quello è irraggiungibile, insomma, come obiettivo in termini di produzione. Senti, chiedo, e distruzione di costi, chiedo, di posti, chiedo, di lavoro. Ti chiedo a monte che invece che valutazione mi dai sulla Fiorentina, tenendo conto, te lo annuncio prima, che c'è Benedetto Ferrara da Repubblica in linea. Beh, la Fiorentina, tra l'altro, io apprezzo molto quello che fa il presidente Cognini, che non dirlo perché c'è Benedetto Ferrara, eh. Ma io esprimi mi serenamente su il tuo un unico, insomma, su un aspetto più limitato, nel senso che Cognini ogni tanto fa delle conferenze stampa in cui di fatto pubblica i dati finanziari di quello, per esempio, che è il mercato della Fiorentina, i progetti, insomma, cosa su cui c'è meno trasparenza su tante altre squadre. La Fiorentina ha un grosso problema connaturato e collegato a tante altre club italiani, che ha un fatturato troppo basso per le ambizioni della piazza, cioè parliamo di qualcosa che sta molto sotto i 100 milioni e così, insomma, il calcio di oggi non va da nessuna parte. Ciao Benedetto Ferrara. Ciao ragazzi. Hai sentito Berinazzo? Sì, ma tieni saggio, conto che lui è pessimista di natura, eh? No, ma è vero comunque che certe squadre hanno fatturati, diciamo, non commisurati alle ambizioni della piazza. La Fiorentina, ricordiamo, tre quarti posti, un quinto posto, comunque negli ultimi anni ha fatto anche un gioco fantastico con Montella, primi due anni è arrivata a una finale Coppa Italia, a una semifinale di Europa League. È certo che l'unica cosa che si potrebbe un po' dire, senza per questo fare assolutamente polemica, comunque il fatto che l'era della Valle è stata un'era di grandi momenti belli, ricordiamo la Champions di Prandelli e così via, però certo, insomma alla fine alla fine non si riesce. Ma anche qui il domandone è dove si vuole arrivare, dove si vuole andare. Ma io, guarda, credo, se parliamo del futuro della Fiorentina, il futuro della Fiorentina è molto legato a, come d'altra parte, questo è il calcio italiano è un calcio con grandi aspettative, però privo di strutture, no? C'ha i soldi che girano, i cinesi che arrivano, e poi in realtà ci sono strutture che sono le erano già vecchie Italia 90 sostanzialmente, no? Cioè un calcio da buffo, perché da una parte si cerca di rendere tutto molto patinato, soldi, bilanci, procuratori che diventano che devi pagare più dei giocatori, insomma sì. È un mondo così, e poi alla fine però la gente va allo stadio a prendere l'acqua e non è cambiato nulla, a parte ovviamente quei casi rari di cui se ne parla oramai come, giustamente, come qualcosa di assolutamente fuori da questo perimetro del calcio italiano, cioè lo Juventus Stadium e lo stadio di Udine, che sono due grandi passi avanti, no? Quindi è molto legato a quello. Io credo che entro l'anno, probabilmente, speriamo, perché da 8 anni si va avanti, Firenze avrà un inizio di un percorso per costruire un nuovo stadio. Sarà una cosa lunga del tempo, ma questo attirerà anche capitali stranieri e per probabilmente aumentare un po' quello, insomma, anche allora, un po' l'ottimismo riguardo al futuro, allora, di un calcio. Facciamo così, Benedetto. Sì, io dimmi. Ti saluto e faccio rispondere in 31 secondi a Marco Belinazzo. Entro fine anno dovrà essere presentato il progetto a Firenze. Fondamentale, è inutile che ci torniamo su, ci vorrebbero puntate solo per parlare dello stadio. Roma, pensando allo stadio, mi viene in mente Roma, si doveva giocare nel nuovo stadio con Totti. Purtroppo i tempi stanno andando avanti, ora il nuovo timing, ora che inizia la conferenza dei servizi regionali, che dovrebbe essere l'ultimo passaggio in 6 mesi, è stato fissato per il 2019. Io non so se il capitano della Roma arriverà a giocare fino al 2019, ce lo auguriamo tutti da tifosi, ma insomma comincia a essere un po' in là con gli anni, sia il progetto che il grande Totti. Grazie Marco Belinazzo. Grazie a voi. Io ringrazio Marco Belinazzo, ringrazio Giorgio Ruga, nostro autore, Alvise Falzone in redazione, Andrea Roccabelli in regia. Tutti convocati, torna con l'appuntamento del weekend dalle 17 alle 19. Ciao ragazzi.